Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note del Mormorio di primavera di Christian Sinding, un compositore norvegese, iniziamo l'incontro di questa sera con Mirella Bersani Calleri. Buonasera Mirella Bersani Calleri. Buonasera. Grazie a quanti ci ascoltano. E innanzitutto Mirella Bersani Calleri, imprenditrice, un'azienda agricola, produce olio, ma iniziamo dalla Norvegia, perché questa musica, questo Mormorio di primavera, che cosa le richiama? Iniziamo dal romanticismo, che dovrebbe ritornare con la passione della gente in generale, ma dei giovani per la natura, e quindi vedrei proprio questo sottofondo, questo mormorio, come un accompagnamento verso l'agricoltura. Un piccolo canto del mattino degli uccelli, esatto. Il mormorio del ruscello, del ruscello, le cose che ricordano, sì, la natura, sì. Lei è appassionata della natura, come mai produce olio? Perché è la zona. Dunque, a parte che l'Italia è una specie di scrigno d'oro, e basta scavare poco e metterci una pianta e viene fuori una foresta. E noi invece, diciamo, giriamo in tondo, andiamo in giro a fare altre cose, e invece io direi che il futuro prossimo deve essere un ritorno, ma più che all'agricoltura in senso così faticoso, il ritorno proprio al paesaggio, alla storia, alla tutela. Io vedrei proprio i giovani che intanto delle scuole di altissimo livello che insegnino loro proprio tutto quello che il territorio può offrire. Ecco, l'Italia ha una grande tradizione, tra l'altro lo stesso nome della sua azienda, l'olio dei Farnese, richiama qualcosa di molto lontano, di molto tradizionale, certo, che ha le sue radici nei secoli. Certamente, ma infatti io mi sono sempre chiesta come mai tutta i paesi europei attraverso i secoli si scannavano per conquistare terreni agricoli in Italia, castelli e città, e campavano benone, diventavano anche ricchi, poi avevano naturalmente le battaglie che gli facevano fuori tutti i fondi. E allora mi sono chiesta perché noi non siamo i primi a riconoscere che il nostro territorio è veramente valido, e che oggi tra noi e l'albero d'olivo o l'albero di mele renette o il vino buono c'è l'Europa. C'è la politica agricola europea che avrebbe dovuto sostenere l'agricoltura, forse l'ha sostenuta magari più in altri paesi che non in Italia. Perché noi anche siamo stati un po' incauti nella gestione dei fondi che ci venivano messi graziosamente davanti. E forse gli italiani, tutti i nostri governi, non si sono ancora resi conto che i paesi esteri, soprattutto di cultura anglosassone, hanno le zanne lunghe. Cioè, o noi mandiamo gente intanto che parli l'inglese, perché le traduzioni che vengono fatte in Italia dei piani agricoli internazionali in lingua inglese sono fatte col computer, col traduttore automatico, automatico, per cui non si capisce assolutamente. Beh, poi c'è una forza forse di questi paesi, si dice che hanno saputo difendere molto bene le loro produzioni, che sono soprattutto lattiero-casearie, certo, piuttosto che noi, che abbiamo delle produzioni appunto nel campo dell'olivicoltura, della viticoltura, dei vini. Però negli ultimi anni in fondo l'Italia è riuscita a conquistare posizioni, soprattutto per esempio in campo vinicolo, ma anche in campo oleario, ad avere dei prodotti di ottima qualità. Sì, ma il problema della qualità diciamo che è sicuramente un problema che noi continuiamo a potenziare, e il fatto è che quando arriviamo in Europa con quella massa immane di soldi che l'Europa agricola gestisce e ha gestito dal 2007 al 2013 in modo unfair, poco elegante, potremmo tradurlo così. Ecco, poco elegante. noi siamo rimasti un po' tagliati fuori, perché per esempio io qui piani, tanto per dirne una, la Spagna, per dire la figlia, il paese vicino a noi, la fondo. Figlia prediletta della Germania dall'epoca di Carlo V, prende, ogni contadino mediamente prende ha preso negli anni scorsi 5.000 euro all'anno, noi 1.250, cioè lì è chiaro che qualcuno che è andato lì forse non ha colto bene il passaggio della commissione, o non si è impuntato, oppure non ha saputo difendere i diritti italiani. I soldi in questo senso ci sono, l'agricoltura potrebbe essere qualcosa da rivitalizzare. Guardiamo in avanti, lei consiglierebbe a un giovane di mettersi in agricoltura? Assolutamente sì, ma non è in agricoltura, deve mettersi a fare l'imprenditore, il chimico, l'esperto di storia, di archeologia, di coltivazione, perché do un esempio pratico. Sta cambiando il clima. Ce ne accorgiamo, sì. Ecco, il clima è diventato più caldo e diciamo che le piante ne risentono, cioè maturano prima i frutti e così via. E io ho notato che mentre la tradizione della raccolta dei frutti avviene secondo delle date prestabilite, magari con Frate Indovino alle spalle, adesso invece bisogna diventare un po' più agili e capire che se a un certo punto le olive sono mature, è inutile che tu aspetti 15 giorni di prassi, perché ti arriva un bel temporale e te le sbatte giù quando sono mature. E questo spiega il fatto che quest'anno, fra gli altri... Ecco, parliamo un po' di quest'anno, perché con Mirella Bersani-Calleri, quest'anno si dice che l'olivicoltura ha avuto dei grandi problemi. E certo, ma i problemi sono stati questo del clima. Cioè, in poche parole, se le olive maturano quando sono tra verdi e viola, invaiate, come dicono quelli bravi, e tu le lasci su ancora un po', verso i morti, in generale, quella è la tradizione, la data tradizionale per la raccolta, ti arriva un bel temporale quasi tutti gli anni, anzi direi tutti gli anni, e te le batte giù perché sono mature. Se invece tu le stai a guardare 15 giorni, io quest'anno ho raccolto 15 giorni prima, perché mi ero accorta che erano già lì pronte ed erano... Quindi bisogna sentire in fondo, bisogna un po' parlare con le piante, perché sono esseri umani. Quindi avere un rapporto è appunto di conoscenza scientifica in un certo senso, sì, ma anche di intuizione, di passione verso la terra. Esatto. E poi ci sono stati problemi in molte regioni della impossibilità di importare olio da altri paesi, perché veniva poi sanzionato. E quindi, insomma, quelli che lo facevano in Italia, questo brand, chiamato brand, hanno dovuto evitarlo. C'è un po' di contraffazione, di pirateria in questo la settore. Contraffazione è dovuta al fatto che, intanto, per parlare delle nostre vicine di casa, la Spagna ha preso una marea di soldi dall'Unione Europea. Dunque la Spagna ha, diciamo che ha un rapporto particolare con la burocrazia europea, perché i suoi funzionari giovinetti sono stati mandati a fare le fotocopie quando siamo entrati nell'Unione Europea. Dopodiché sono cresciuti di grado e quindi sono diventati gli Almunia e Barroso. C'è qualche cosa contro la Spagna nelle sue parole? No, la Spagna certamente... Sono stati più bravi di noi, possiamo dire no, così. No, diciamo che hanno puntato sull'olivicoltura in maniera massiccia. Loro avevano un'Andalusia che era fatta di sassi e di chitanos e di asini che camminavano sul bordo del ciglio del burrone. Adesso hanno le migliaia di olivi, produzione, diciamo, certo, di... prevalentemente lampante, e quindi hanno potuto fare in mani quantità. Magari qualche consiglio utile per scegliere l'olio giusto possiamo darlo, ma adesso dobbiamo fermarci per le utilissime notizie sul traffico. Restate con noi, tra un attimo riprendiamo il nostro incontro con Mirella Bersani-Calleri. Incontri. ancora con il mormorio di primavera di Christian Sinding, compositore norvegese, il canto del mattino degli uccelli, il mormorio del ruscello vicino alla casa, queste note molto romantiche. Continuiamo il nostro incontro di questa sera con Mirella Bersani Calleri, imprenditrice, un'azienda agricola, l'olio dei Farnese. Parlavamo di olio, parlavamo della concorrenza della Spagna, parlavo di tanti oli, ogni tanto anche di qualche contraffazione. Come, proprio in un minuto, come scegliere l'olio giusto, l'olio buono? Etichetta. Naturalmente, quando leggete prevalentemente comunitario, qualche dubbio può venire. Qualche dubbio c'è. Bisogna leggere in generale proprio dove vengono coltivate le olive, perché il discorso è del controllo di qualità. Mia azienda sono biologica e uso abbondantemente concime animale, perché ho fatto un'amicizia stretta con un allevatore di maiali, di mucche, e di pecore e capre, e lui tutto felice si libera la sua azienda. Io gli ho regalato un pratone dove lui mette l'erba, quindi abbiamo il ciclo continuo. Quindi ci sono tante aziende oltre la sua in Italia che si comportano bene, che fanno dei buoni prodotti, vanno forse anche un po' pagati, forse non bisogna lasciarsi attirare dal prezzo. Un buon olio quanto deve costare? Io non sarei io addirittura, più che l'olio, mi comprerei, quando compro l'olio, diciamo, quando vedo l'etichetta, mi compro il produttore. Cioè, io sono per lo sciamare di persone, di famiglie che con la loro bella macchinetta la domenica vanno in campagna e si comprano quello che gli serve, perché è il produttore che garantisce la qualità. Questo anche per tornare ad avere un rapporto di conoscenza costruttivo e anche di passione per la natura, perché non è facile. Guardi che per fare oggi l'agricoltore, ripeto, il chimico, quello che vende il territorio con tutto ciò che esso contiene di storia, di tradizione, perché io appunto l'olio dei Farnese. I Farnese sono stati una famiglia che, partendo dalla campagna, infatti erano un po' bureni agli inizi, avevano anche uno stemma con tre alberi che, insomma, a Roma li figurarsi quando sono arrivati a Roma, immaginatevi i romani, no? Allora, avendo visto in giro i gigli di Francia, se lo son preso, tanto nessuno gli ha fatto, le hanno copiate. Però loro, da campagna e da militari, hanno poi conquistato mezza Italia. Quindi vuol dire che la campagna, come diceva Einaudi, che io la campagna rende, se sai capire che il territorio è un tutt'uno. Devi vendere il territorio con tutto quello che contiene. Certo, ci va una cultura. Certo. E i ragazzi, che non in molti casi ne hanno così a spot, bisognerebbe che potessero frequentare degli istituti nei quali vanno ad insegnare, come nel Medioevo, anche insegnanti che provengono da altri paesi, perché a quel punto la cultura diventa diversificata e c'è un'osmosi fra la produzione italiana e la produzione degli altri paesi, anche tra la città e la campagna. Ecco, lei ha citato Einaudi. Il tempo vola, dobbiamo fermarci anche su Einaudi, uno dei pochi statisti che abbiamo avuto in Italia, tra l'altro appassionato di agricoltura, contadino. Da Doriani a Carrù, aveva delle terre, seguiva le terre. Lei è appassionata di Einaudi, ha scritto anche un libro, ha raccolto in un libro molti pensieri di Luigi Einaudi, Le regole d'oro del buon governo. Ha ancora molto da insegnare, ma Luigi direi Einaudi. Che qualche volta gli chiedo che tram devo prendere la mattina, perché è di una attualità, soprattutto nella politica europea. Cioè, se qualcuno, diciamo, che frequenta i campi del governo volesse una volta in aereo leggerselo, viene giù e ha già capito tutto, perché Einaudi aveva, lo diceva lui, la mentalità del contadino che guardava dal basso in alto il potere come veniva esercitato, ed era scafato, perché un langarolo di solito è piuttosto sveglio, e quindi ha già previsto le situazioni che si sarebbero create, tanto per dirne. E tra l'altro tutti pensano che fosse un vecchietto inoffensivo col bastone, invece era era un solenne, grandissimo personaggio che aveva l'aria che non corrispondeva alla sua anima. Sentite, vi leggo solo queste righe. Se ne fossi capace, vorrei scrivere un inno irruente ed avvincente alla discordia, alla lotta, alla disunione degli spiriti. Il bello, il perfetto non è l'uniformità, non è l'unità, ma la varietà ed il contrasto. E beh, poi c'è uno spirito liberale, ogni uomo è diverso dall'altro, ogni uomo favorire, ha qualcosa da portare agli altri, qualcosa da testimoniare, quindi in questo senso il liberalismo di Einaudi è qualcosa di connaturato anche alla sua esperienza. Certo, certo, perché non è lo Sturm und Drang, tempesta e assalto, cioè avvicinare la natura anche con la voglia di sfidarla quando la natura magari ti tradisce. Ed è una sfida che non ha età. Per presentare Mirella Bersani Calieri possiamo dire che ha 4 volte 20 anni. Sì, sì, no, lo può dire perché, anzi, sono contenta perché a questo punto si possono fare delle sintesi di tutte le esperienze e penso che ai giovani potrebbe giovare frequentarci. Ecco, qual è lo sbaglio più grosso che ha fatto, senza fare nomi, nella sua vita, che tornando indietro lei pensandoci, ma forse questo potevo evitarmelo? Essere sempre in anticipo sui tempi. Questo è uno sbaglio? Assolutamente, perché quando io presentavo determinate verità, le giustificavo, le spiegavo, le articolavo, e gli altri mi venivano dietro come il carretto della vecchia, cioè non mi seguivano. Dopo 20 anni, però avevi ragione quella volta a dire, ed è la cosa peggiore, guardi, essere Cassandra, difatti Cassandra è finita, certo. Poi... Quindi non anticipare troppo, ma neanche poi essere al seguito. È così, la vita è così. C'è gente che è Cassandra proprio di nascita e se lo deve godere il suo spirito. È così. Ecco, da appassionata di Einaudi, perché c'è così poco spirito liberale in questo paese? Ma perché la gente non ama la sfida neanche con se stessa. E i governi che si sono succeduti non hanno dato gli strumenti per vincere la sfida, e gli strumenti sono prima di tutto le scuole, perché negli anni 70, quando poteva avvenire la mobilità sociale attraverso la scuola, sono arrivati quei belli spiriti, diciamo, di contestatori che hanno occupato le scuole, e quei ragazzi che avevano i genitori magari analfabeti o analfabeti di ritorno hanno perso la loro chance. Quindi la scuola è un momento centrale, una scuola che va difesa. Ma io adesso scuola, da domani mattina, scuola di agraria, ma ripeto, io la chiamerei non più agraria, gestione del territorio, come la chiamano i francesi. Tra l'altro i francesi qui ci possono insegnare, perché loro per i giovani hanno creato i 1000 villaggi di Francia, ed sono forme di comodato offerte ai giovani gratuitamente per i primi 5 anni, e purché si insediano in un paese, diciamo, rurale, rurale. E poi possono anche non fare proprio la coltivazione, ma possono, non so, parliamo della Costa Azzurra, le spalle della Costa Azzurra, che orograficamente ci assomiglia, perché la nostra costa tirrenica è la proseguimento, loro hanno fatto vivere dei villaggi. Puoi fare per esempio la mostra di un artista che in quell'epoca calda d'estate non va certo a esporre a Parigi, ma va a esporre a Cap d'Antibes o alle spalle a Cagnes-sur-Mer, cioè... Voglio dire, bisognerebbe un governo che avesse una politica. Per in Italia di terreni che vengono abbandonati e anche di villaggi che vengono abbandonati ce ne sono molti. Pieno, ma guardi la zona dove centro Italia, gli ex possedimenti del patrimonio di San Pietro. Io spero, questo Papa mi sembra che abbia un altro taglio, non peraltro è 2000 anni che nessuno nominava un Papa di quell'ordine. Mi sembra che abbia capito che tenere tutto questo in mano, mano morta, che non renda, e che potrebbe essere distribuita ai contadini locali, ma ai giovani, eccetera. Mi pare che questo Papa ci abbia fatto un pensierino. Forse qui si parla poco del fatto che ci siano ancora dei grandi possedimenti nell'Italia centrale, appunto, soprattutto in zone che potrebbero essere sfruttate dal punto di vista dell'olivicoltura, della viticoltura, no, ma anche di un'agricoltura. Ma anche per far vivere meglio delle persone, delle famiglie, dei giovani che formino una loro loro giovane famiglia. Ma pensi che differenza c'è tra il vivere in una squallida periferia coi piloti che ti, dove risuona il tuo passo alla sera solitario, fatte di quei belli architetti degli anni 80 milanesi, che non hanno considerato il lato sentimentale della casa. Pensi la differenza col vivere in una campagna dove hai l'orto, la gallina, il coniglio e il tuo bambino gioca e impara, ecco, a guardare gli alberi. Forse è una scelta che non tutti possono fare, che però qualcuno potrebbe fare, potrebbe entrare nel novero delle possibilità. Ecco, non dobbiamo pensare che tutti dalla campagna debbano trasferirsi, dalla città debbano trasferirsi in campagna. No, ma il fatto è che oggi con internet un giovane può vivere dovunque ed essere collegato con tutto il mondo, e può essere isolato invece vivendo in Piazza del Duomo. Cioè, voglio dire, è chiaro che se un governo X avesse una prospettiva di governo già prestabilita, farebbe tutti gli atti, come ha fatto, ripeto, la Francia e la Germania, che curano lo sviluppo e il miglioramento. Difatti nel piano dell'agricolo europeo molti fondi sono destinati al miglioramento della vita in campagna, cioè al fare proprio scuole e magari portare anche la banda larga, in modo che la campagna possa essere connessa. L'Italia ha fatto un progetto per i prossimi miliardi che è un po' sul fumoso, ecco, diciamola così. Possiamo concludere dicendo un inno alla campagna, un inno alla capacità di vivere, di capire le cose essenziali della nostra vita, ma la passione anche per vivere, per far fruttificare poi quello che è la realtà quotidiana, con tante possibilità che ha per i meno giovani e anche, ma soprattutto per i giovani. Certamente, si fondono le due generazioni in campagna. Grazie mille, grazie a Mirella Vessani Galleri per essere stata con noi questa sera. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora per quanto resta. Buona domenica.